La confusione delle mani, Margherita. La confusione degli anelli, degli occhi. Provoca la tua passione, mia pentecostale. D'altronde, sbuchi assai presto e non sai mai dove ti accolgono tappeti di molte orme. Pedana, di faccia plurima e tu ti infiori qua e là, ti sperdi. Per troppa assenza di parsimonia, per troppa dissipazione, così, per forza di circostanze, entri in ambiguità, divenendo regina triste di un mama non mama ed altre lepidezze del genere. Potessi esentarmene io, che la medesima sauna soffro, potessi dita di Margherita e sicurezze possedere tante da appisolare in pace Margherite sognando.